loro programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E questa, devo dire, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, è una puntata del tutto speciale. Vedete, ogni tanto faccio delle puntate monografiche, di solito su un argomento in particolare. Qui l'argomento, diciamo, che ha una certa forma antropomorfa, devo dire. Ve lo presenterò tra pochissimo. Sono veramente onorata di riavere, devo dire, più che di avere, di riavere qui un grandissimo ospite. E io direi di cominciare. Pensate che è talmente speciale questa puntata che le ascoltatrici e gli ascoltatori si sono prenotati da me. Voi pensate che per poter intervenire oggi c'era gente che ha messo la tenda qui davanti al palazzo di Radio 24, gente che si arrampicava sulle finestre, una cosa incredibile. E quindi, insomma, sono stati proprio selezionati, parteciperanno un numero chiuso di persone per riuscire, insomma, a fare qualche domanda a questo personaggio che io direi potremmo presentare. Vi do qualche indizio, prima, qualche indizio, qualche suggerimento. Facile, è facilissimo. Chi è il più grande a livello internazionale, che è nostro però, è italiano? Direi che potremmo andare anche con la presentazione ufficiale. Giovanni Allevi. Salve. Mamma mia, che bella presentazione, mi sono tutto ringalluzzito. Vedo. Era una giornata grigia, invece adesso il fatto solo di vedermi, dove sei illuminato subito, adesso non per darmi delle aree, ma effettivamente, perché con Giovanni, voi dovete sapere che ci eravamo dati un primo appuntamento anni fa. Come passa? Io non mi ricordo manco quanti anni fa erano, Giovanni, tu te lo ricordi? Dunque era il 2004? Forse il 2004. Il 2004, sì. E io mi picco di aver invitato, avendo colto subito da Talent Scout, colto il talento, il genio, aver invitato allora un Giovanni Allevi già bravissimo, che era già stato al Blue Note di New York, che però forse a livello di massa, di tutto il successo che hai ormai da tempo, di folle che riempiono i suoi concerti, era un bravissimo compositore, ma forse dalla massa ancora poco, non molto conosciuto. No, totalmente sconosciuto. Totalmente sconosciuto, era molto modesto Giovanni. E io dissi, lo voglio invitarlo, questo musicista bravissimo. Venne a Diario, la trasmissione di allora, fu il primo mezzo radio-televisivo, diciamo, in cui fu ospitato Giovanni Allevi, e ebbe in due ore un successo pazzesco. Ti ricordi, Giovanni? Sì. Ascoltatori che continuavano a chiamare a pioggia, non si tenevano più, perché Giovanni non solo è un grande compositore a livello internazionale, ma penso che tu avessi ipnotizzato anche le persone con le tue parole. Io non so se adesso le hai risucchiate la tua musica o hai sempre questa loquia, poi non ci siamo visti nel frattempo, però non abbiamo avuto occasione proprio per stare tanto tempo insieme ancora, no? Dunque, fondamentalmente non lo so, è un mistero il motivo per cui si viene comunque a creare questo legame così, così bello, profondo con le persone. Forse perché gli voglio bene alle persone, non lo so. Beh, forse anche perché Giovanni, che dicevo, il genio della musica classica contemporanea, no? Si sono dette tante cose di te, ma soprattutto di te si è detto che hai questa capacità di portare la musica alta, la musica classica, a un po', diciamo, a tutte le persone, no? Non rimane un ambito così elitario, lontano. Questo è stato, da una parte, forse questa è la chiave del tuo grandissimo successo, anche con l'ultimo disco Alien, disco d'oro, hai venduto tantissime copie, ha suonato in tutto il mondo. Diciamo che però anche il tuo aspetto, io non mi ricordo se era stata una mia definizione quella di Giovanni Allevi, versione femminile di Pippi Calzelunghe, o era da qualche altra parte? Sì, no, era quella lì. Era mia o era tua? Sì, era, cioè, la tua, no, era io la da mia. Solo dopo. Però probabilmente sì, c'è qualcosa di vero sicuramente. C'è qualcosa di vero, perché tu non sei quello col frac, tutto serioso, tutto compenetrato nella sua musica, che se qualcuno fa uno starnuto lo guarda e lo fredda con lo sguardo. Tu sei un personaggio completamente diverso, sei un alieno effettivamente un po'. Beh, sì, adesso dirò qualcosa di un po' presuntuoso. Ne hai facoltà, come sì, si dice. Per me la musica è veramente tutto, ma davvero tutto. Cioè, non ci dormo la notte per la musica, sono ossessionato dalle note. sono continuamente alla ricerca della melodia perfetta, della composizione che possa... Vabbè, insomma, si è capito. Dunque, tutto il resto per me sono fronzoli. Tutto il resto è noia. È assolutamente ininfluente. Quindi il frac, tutto questo aspetto formale, è proprio briciole, polvere in confronto. Orpelli, così. E quindi mi presento sul palco, vestito esattamente come sono a casa. La tua t-shirt, come sono i tuoi jeans, momento. Scarpe da ginnastica, se fa freddo una felpa. Chiedo scusa al pubblico per... ma il pubblico però l'ha capito questo. Ha capito, che bello. Sì. E quindi mi sento più a mio agio. Perché tanto so che la sostanza è altrove, non nel mio aspetto, nel mio modo di vestire, eccetera. La sostanza è altrove. E di sostanza ce n'è tantissimo. Quanti dischi hai fatto? L'ultimo album è Alien, dicevamo, che disco d'oro. Poi dopo cerchiamo di elencarli, perché io non ce l'ho a memoria. Ma insomma, da 13 dita, che è stato il primo, no? Hanno detto che aveva scoperto Giovanotti, qualcosa prodotto. Lui è stato il produttore del mio primo album. Poi il primo successo è del 95, che avevi scritto le musiche per le Troiane, questa tragedia di Euripide, no? Sì, no, lì era la prima volta che io vincevo qualcosa. Sì, perché, un primo riconoscimento ufficiale. Nel Festival Internazionale del Dramma Antico veniva conferito anche il premio per le migliori musiche. E in quel caso, nella tragedia troiana di Euripide, ho vinto questa cosa. Mi è sembrato meraviglioso. Però poi era finito lì, insomma. Però poi il vero grande successo, quello quando hai capito proprio che, insomma, avevi sfondato, come si dice, che davvero avevi, come hai adesso, questo seguito incredibile di consenso, di fan, di opinione pubblica. Quando è stato? Forse con l'album prima di Joy? Sì, sì, no? Era l'album No Concept. No Concept, 2005? Che era 2004. 2004. Quando infatti quando, quindi, ci siamo incontrati. Che bello. Però devo dire che da allora ho perso la serenità. Sì. Caro, questo è il prezzo della fama, della notorietà, e non è che puoi stare tranquillino, andare a prendere il pane sotto casa senza che nessuno, e avere anche tutto questo successo. Sì, un po' di pressioni. Le senti queste? Sì. Dalla casa discografica, dal pubblico, no, anche, no, perché ha delle aspettative. No, ti lasciano piuttosto tempo. Nel corso del tempo, di questi anni, comunque si è avvicendato uno staff, cioè case discografiche sono cambiate, anche lo staff che è intorno a me. Adesso praticamente mi sono scelto, ecco, le persone più belle, quindi mi creano una nuvoletta intorno. Che non è la bellezza, diciamo, di chi sceglie dei ministri in base a certi requisiti. No, è talento, la bellezza interiore. Talento prima di tutto, e poi devono essere donne, perché io sono convinto... Marpione, adesso, il nostro Giovanni Allevi. Aspetta, adesso mi farò 50% di nemici, però io sono convinto che le donne sono degli esseri superiori. Giovanni. No, veramente. Io adesso non so se si può dire, Giovanni è già occupato. Sì, no, sono occupato. Non vi fate illusioni, purtroppo. Però devo dire, la sensibilità, la capacità di intuizione, poi il senso della mediazione. Ecco, noi uomini siamo dei galletti animati da volontà di potenza, invece io spero che il mondo sarà un giorno governato dalle donne. Allora, stupendo, Giovanni. Detto questo, io ho questo staff di donne fanno in modo che io resti tranquillo e sereno e affronti quello che è l'impegno per me più importante, che è la composizione musicale. Con poi, serenità, quindi. Sì, quel poco che non sono sereno. Senti, comunque cominciamo subito allora a far intervenire una tua fan, sì. Visto che appunto abbiamo detto, cioè, un numero ristretto di persone che si sono prenotate da tanto tempo. C'è Chiara, se non sbaglio, in ascolto. Chiara? Sì, sono qua. Ciao Chiara. Tutto tuo, fanne quello che vuoi. Ok. Allora, ciao Giovanni. Come va? Bene, grazie. Tu? Chiara, da dove? Così da capiamo Belluno. Anche la geografia. Belluno. Da Belluno. Sì. Belluno. Allora, io volevo chiederti una cosa. Tu sai che di Ascoli Piceno, invece, marchigiano, il nostro Giovanni. Io lo so. Sa tutto, di te. Sì, prego, quasi. Chiara. Allora, io sono un'insegnante di scuola dell'infanzia. Sì. E, andando un po' controcorrente, propongo ai bambini musica classica, ad esempio Rachmaninoff, Bach, Chopin e Allevi, naturalmente. Grazie. Che appostamento magnifico. I risultati sono sorprendenti, devo dire. E volevo sapere, come compositore di musica classica contemporanea, ritieni che io stia esagerando oppure ti rivolgi anche ai bambini con la tua musica? No, fondamentalmente essendo io comunque un immaturo, un immaturo interiormente parlando, sento di essere molto vicino al mondo dei bambini, tanto che vengono numerosi ai miei concerti. E questo è sintomatico, cioè vuol dire che comunque la mia musica riesce a entrare in contatto con la loro sensibilità, ma è un grandissimo onore per me. Il fatto che tu riesca a far loro amare i grandi capolavori della musica classica, ma guarda che è una cosa straordinaria, bravissima, bravissima, stai regalando loro la possibilità di entrare in contatto con una grandezza, con una genialità. Io mi faccio da parte per il momento, ti ringrazio di avermi messo in così importante compagnia, però sei forte, sei forte. Grazie Chiara, però lo posso confermare prima della prossima pausa, che sono stata uno degli ultimi concerti in cui sono stata di Giovanni a Firenze, i più scalmanati erano i ragazzini, sei un mito, veramente è una cosa incredibile, e questo a dimostrazione, a conferma appunto che la tua musica è per tutti. Poi su questa cosa faremo un'osservazione, certo, anzi riporteremo, certo, diciamo, qualche secondo me sciocca polemica che c'era stata recente passato, però di domande poi ce ne sono diverse ancora di ascoltatrici e ascoltatori che avremo tra pochissimo. Giorgio De Luca sta prendendo le vostre telefonate, ricordo che appunto essendo una puntata speciale c'è un numero chiuso di persone che intervengono perché appunto si sono prenotate per tempo. Io vorrei anche fare una prova, personaggio Giovanni Allevi, diciamo che una delle chiavi della sua fortuna è anche questa pazzesca capigliatura che Giovanni si ritrova, e siccome qualcuno mi ha chiesto, senti, prova veramente a vedere che non sia una parrucca questa di Giovanni, posso fare una prova? Posso? No, sono rimasti attaccati, sono tornati indietro, dice, non si è staccato. Quindi vi confermo che la capigliatura di Giovanni Allevi è autentica, non è una parrucca, autentica come del resto è lui. A tra poco. Musica bellissima che sentite che ci accompagna in questa puntata. Sapete, se avete seguito la prima parte finora, è di Giovanni Allevi, grandissimo compositore a livello internazionale, un successo dopo l'altro, sempre più grande. E io ho voluto dedicare proprio questo speciale oggi, specialissimo, con, dicevo, diversi ascoltatori che si sono prenotati da tempo per intervenire. Giovanni Allevi ormai non ha bisogno di presentazioni, lo conoscono in tutto il mondo. Dov'è che non hai suonato? Forse si fa prima di dall'Australia agli Stati Uniti, Hong Kong, Giappone, c'è un paese dove... No, dove non ho suonato è stato l'Australia. Ah, sì, l'Australia. Non hai suonato in Australia? Quando è che vai in Australia? Scusa, dici così. Quando è che vedi? Viaggio un po' lontano l'Australia. No, a parte, vabbè, vado spesso in Giappone, faccio una capatina anche in Australia. Che a te non dispiace il Giappone? No, il Giappone c'è proprio un legame... Adesso che è successo quello che è successo? Lo so, infatti c'era una tournée che è saltata. Però la recupero tra qualche mese. Che cosa hai pensato quando è successo? Ma subito ho pensato ai fan, ai ragazzi, perché io sono in contatto via mail con molti di loro. Mi scrivete in giapponese? No, ma loro scrivono in italiano. Ah, in italiano. Fantastico, loro studiano l'italiano. Già per l'opera hanno questa passione, sì, e cantano in italiano, sì. No, anche in Corea. Ma e c'è poi proprio l'amore per la lingua, l'amore per il mondo italiano. Il loro sogno è venire in Italia a studiare, a fare un'università, a laurearsi, ma è fantastico. Allora, appena saputo della notizia, subito scritto a quei ragazzi e ragazze che conoscevo. Per fortuna erano tutti della zona di Tokyo e Kyoto, quindi un po' più lontani, dall'epicentro, e mi hanno risposto, mi aspettano tutti qua. Anzi, sono stati loro a consigliarmi di non andare subito, di non andare subito, perché c'è un po' questa paura delle radiazioni. Ma io adesso vado lo stesso, non me ne porto niente. Speriamo che ce lo rimandino vivo e integro Giovanni Allevi. Che Giovanni è uscito non da molto, con, anche se già ha fatto un grande successo, disco d'oro, è partito il tour, adesso poi diremo anche qualche data, Alien. sì. Questo disco bellissimo, con questa immagine abbastanza da lì, non so, seminudo, cioè qua Giovanni ha voluto fare un po' il trasgressivo, diciamo, sì, con questa mano con i tasti del piano attaccati, è molto particolare. E, tu hai detto che effettivamente ti senti, nella presentazione di questo disco, un po' alieno. Io l'ho detto anche all'inizio, lo conosco da diversi anni, Giovanni era venuto qui per primo come mezzo radio televisivo, l'avevo invitato nel 2004, mi è parso subito diverso, e dicevo la chiave del suo successo è proprio, oltre alla tua bravura naturalmente nel scrivere i brani, anche proprio nel tuo essere a tutto tondo, anche umanamente, no? Differente. E tu dici, per essere veramente se stessi, io mi sento un alieno, perché devi superare i pregiudizi, gli stereotipi. Per esempio, per te un pregiudizio da superare qual è? Beh, il fatto che il musicista classico debba suonare necessariamente Beethoven, Chopin, Rachmaninoff. Che tu avevi iniziato così, tu sei certo. Figlio d'arte, nato in una famiglia di musicisti, tranne tuo fratello che si occupa ancora di basket. Tuo fratello? Sì, no, ancora si occupa di basket. Ecco. Mentre sorella, mamma, papà, tutti musicisti. Che suonano, tutti musicisti, l'impronta sì. C'era. Allora, c'è un mondo che è quello della musica classica in cui sono cresciuto. Tu puoi fare due cose, o contemplarlo nella sua magnificenza, restarne proprio schiacciato, oppure provare a osare. A dire, ma perché non fare come loro, non fare come i grandi del passato? E inventarsi qualcosa, inventarsi sempre riproporre le stesse cose. Ecco, tutti vanno in quella direzione, perché non provare ad andare di qua, anche se di qua non c'è ancora nulla? Non c'è una... C'è da sperimentare, c'è chiaramente da sperimentare, è rischioso. Da aprire una strada, magari una strada nuova, molto più faticoso in realtà. Ho provato a farlo, ho usato questo tentativo, non mi è stato perdonato, dopo ne parleremo. Sì, dopo ne parleremo, lo teniamo lì in caldo. Però vale la pena, insomma, vale la pena vivere così, inseguendo un sogno. E nella vita, al di là proprio dell'immagine stereotipata del musicista classico, del pianista, del compositore, nella vita un pregiudizio, per esempio, che tu consiglieresti di superare? Certo che bisogna apparire vincenti, che bisogna apparire di successo, bisogna essere brillanti. Non c'è nulla di più straordinario che la normalità, la nostra insicurezza, il nostro essere fragili, indifesi anche. Come dicevo, Giovanni alle versione femminile, versione maschile di Pippi Calzelunghe, e questo ci piace moltissimo, Giovanni. Vediamo se piace anche a Paola, che è in linea. Paola. Sì, ciao. Ciao Paola. Ciao Giovanni. Ciao Paola, ciao. Ciao. Volevo, innanzitutto sì, mi piace moltissimo. Ti piace questo suo modo di essere, questo, tutto, tra virgolette, sì, imbranato, sì. Ma piacevolmente, vabbè, diciamo. Vabbè, ma lo siamo un po' tutti, cioè, oddio. Dice, non solo io. Di avere questo aspetto. Di essere della sua musica, ovviamente. Così informale, così giugiolone a volte. Se, quando, sì. Per esempio, lascia, no. Ogni volta che suona i brani al piano, sul palco, scappa via spesso, no? Scappa via, poi ritorna, dice, dove sei, ma chi lo sta rincorrendo, Corro, scappo. infatti, io volevo chiedere a Giovanni, sì, se sì. Ovviamente, anche se hai una formazione prevalentemente classica, se hai un gruppo oppure un cantante che preferisci, che ti piace di più. Grazie. L'ho visto scatenarsi in discoteca, se potevo dirlo, non so. No, allora, intanto, a proposito di discoteca, un aneddoto ricordo. Il primo giorno che sono venuto a studiare composizione qui a Milano, al conservatorio, il mio insegnante, che era giovane, cioè lo è tuttora, il maestro Garuti, non so, ebbe questo guizzo e ci portò tutti in discoteca quella sera. Stranezza, vedi? Ma che strano, ma ho detto, mamma, qua iniziamo bene, insomma, cioè, invece poi tutto il resto del corso fu serissimo. E quella cosa, cosa vi voleva trasmettere, non, la discoteca? Ma ancora glielo, cioè, se lo incontro glielo devo chiedere. Ci appuntiamo una domanda. Dopodiché parliamo solo di lui, di Barry o di Stockhausen per tutto il resto. Comunque, io sono un fan dei Bee Gees. I Bee Gees, sì, fantastici. È stato quello dei Bee Gees, della Febbre del Sabato Sera, è stato l'unico disco cosiddetto pop dance che sia mai entrato dentro casa quando ero piccolo. E quindi per me, insomma, fu una rivoluzione ascoltare quella musica. E lì. Ti piace ancora adesso? Sì, sì, adesso. Bee Gees. Quindi, quando parte della tua formazione. Per il resto... Soddisfatta, Paola? Sì, tantissimo, grazie mille. Tantissimo. Ciao Paola. Grazie Paola. Grazie, ciao Giovanni. C'è Carmela anche. Diamo spazio a Carmela. Pronto? Buonasera. Senti, a tutti. Che bel suono di campane. Come lo ritieni, Giovanni, questo suono sì, di campane? Cioè, giustamente stonato. Stonato, le campane sono abbastanza stonate. No, pure le campane ti fanno festa qui, Giovanni. Ma hai capito? Lei ha avvisato il paese che doveva mettersi in contatto con te telefonicamente. Che meraviglia, che meraviglia. Certamente, allora io rappresento un po' tutti. Che onore. Quindi, Carmela, che cosa chiederesti a Giovanni Allevi, ora che ci abbiamo qua? Io chiedo a Giovanni se avesse la possibilità di incontrare un grande musicista del passato, chi vorrebbe conoscere e che cosa gli chiederebbe? Benissimo, benissimo, grazie. Grazie a te, Giovanni. Dunque, io vorrei incontrare il grande compositore Sergei Rachmaninoff, esattamente... mentre sta per andare dall'analista, perché lui fu talmente attaccato dai critici che ci rimase davvero male, tanto che appunto leggenda vuole che lui sia proprio andato da un analista per cercare di recuperare la propria autostima. L'ha fatto camminare sui carboni ardenti per queste robe qua che fa. Non lo so che cosa ha fatto, però insomma, magari ecco, io lo fermo prima che entra lì nella porta, gli dico: Sergei, ma dove vai? Ma guarda che tu non lo sai, ma il mondo ti amerà, cioè amerà la tua musica alla follia, quindi non ti preoccupare. Vabbè, cioè, se adesso vuoi andare dalla lista, vai, risolvi. Magari due cose, anche quando eri piccolo, però sappi, ecco, insomma. Ma questi critici sempre, guarda. Vero. Parliamo dei critici, allora. Grazie Carmela. Parliamo dei critici perché, devo dire, Giovanni è stato chiamato proprio per la grandezza, insomma, delle sue capacità, del suo valore, di quello che ha dimostrato finora, di essere in grado di fare grandi cose anche in modo un po' rivisitato, trasgressivo, informale per l'appunto originale. Allora ti è stato chiesto di rivisitare l'Inno di Mameli, no? Per le celebrazioni della RAI dei 150 anni dell'anniversario dell'Unità d'Italia. Sì. E io ho visto che appena è iniziata questa cosa, che ufficialmente, insomma, dovevi essere tu, polemiche da tutte le parti, nei media, petizioni su internet, è una vergogna, non può essere lui a fare questa cosa, è un modo di abbassare il livello alto della musica classica, proprio una pioggia, un esercito che si è mosso, ridotto, piccolo, diciamo, rispetto ai tanti fan e al pubblico che ama Giovanni Allevi. Però perché questa cosa? Come è andata a finire? Giovanni l'ha fatto ed è diventato anche l'inno ufficiale, la tua rivisitazione, certo, con cui aprono le trasmissioni di Radio Rai, eccetera. Com'è andata questa faccenda? Allora, io ho dei fan al contrario. Beh, ho dei fan, come diceva qualcuno, odiati o amati, basta, insomma. Ogni cosa che faccio si scatenano, fanno, si indignano, si strappano i capelli, fanno petizioni, vado a prendere il cappuccino, no, è una vergogna. Ha messo troppo zucchero. No, essi proprio si percuotono il petto. Cioè, in no? Serio. Allora, in questo caso proprio veramente l'hanno fatta grossa, perché... hanno fatto una petizione per lamentarsi di una cosa falsa, ossia dell'idea che io avessi rivisitato, avessi stravolto in modo astruso. Allora andiamo ad ascoltare prima, no? E ci accorgiamo. Andiamo ad ascoltare un pezzettino, proprio. Vabbè. Un pezzettino? Grazie, Pietro La Corte era prontissimo a mandarci, mi sembra un po' di brio in più, ma tal quale, se posso dirlo, vorrei grazie. Essere blasfema nel... Non so, cerchiamo di trovare una roba strana che... È proprio la versione canonica, addirittura la partitura mi è stata consegnata direttamente dal Quirinale, quindi è proprio quella ufficialissima, ufficiale. Io non mi sono permesso di cambiare una nota, e invece è proprio stato un disastro. L'invidia è una brutta bestia, chi è che diceva l'invidia è più omicida di non mi ricordo cosa, però devo dirti che infatti quando cercando questo tuo inno, siccome lo trovavo tradizionale, ma non sarà questo sarà un altro che è quello classico che ha diretto, però ce ne sarà un altro che ha fatto così diverso. Invece era questo. Ma che differenza mai ci sarà? E poi ecco, nella petizione, che tra l'altro è stata una petizione fatta, se non sbaglio, al Presidente della Repubblica. Sì, ma ufficiale, che raccoglieva un sacco di firme. Appunto, dopo, e poi c'è un elenco di insulti a me rivolti, io me la sono pure sentita al TG3, questa ero proprio senza parole. Basito, davanti al TG3. Come si sito. E dove vengo accusato di questo è carino, questa cosa. Vengo accusato di mediocricizzazione della cultura, mediocrizzare la cultura e la musica. Mediocricizzazione, insomma, una parola che però di era fatto era difficile da pronunciare. No, non solo, non c'è nel vocabolario. Non quindi che asini, che analfabeti. Mi sembra una bella. Chiudiamola qua, va, questa polemica per noi è già chiusa. Ci sentiamo tra pochi istanti con Giovanni Allegri. Stare lungamente in religioso silenzio, Roberta Giordano sempre con voi, ma il protagonista di questo speciale, Giovanni Allevi, questa è musica sua, Close to Me, una delle tracce di, giusto, ho detto bene Giovanni che mi guardi? Sì, no, questa è Memory. È Memory, vabbè. Perdonami, ma no, Memory, vabbè. La sesta traccia se non sbaglio, guarda mi ricordavo a memoria che era la sesta però, Memory effettivamente ha un po' questa struggente malinconia di fondo e doveva essere per forza Memory, una delle tracce, abbiamo sentito Secret Love, la prima, quella forse per la pubblicità, no? Che sì, è una delle sì, più sì, sentite, sì, le più famose, dall'ultimo album Alien, di cui insomma, è in corso il tour un po' per tutta l'Italia. Giovanni è qui per raccontarvi un po' di sé e per parlare anche con le ascoltatrici e gli ascoltatori che si sono prenotati per tempo per intervenire. Giovanni, io devo dire, dicevamo prima, tu hai detto sono un immaturo, in realtà tu hai questa immaturità, diciamo, del fanciullino, no? La parte buona, non l'immaturo meschinello, no? un po' come sono certi infantili, ecco, a volte spesso gli uomini, ma non solo, anche le donne, invece tu hai questo aspetto un po' candido, no? Un po' del fanciullino di Pascoli mi viene in mente, degli occhi della meraviglia, di un certo candore, nonostante tutto uno se l'aspetterebbe, ma permesso Giovanni di farlo perché sto per dire, attenzione, Giovanni nonostante tutto, nonostante questo aspetto da diciamo 12 anni e mezzo, ha un figlio. Anche Pietro Lacorte mi guarda da parte tecnica strabiliato, come sarebbe? Va bene, non sono la prima persona sulla terra. No, devo dire che è successo altre volte, insomma, da Giovanni Allevi, oltre a creare così tanta bellissima musica, dicevamo prima, facevamo un po' un conto di 6 album in studio, se non sbaglio, e 2 live, ha creato e ha prodotto anche una creatura magnifica, una creatura musicale a sua volta, musicale? Eh sì, beh, va bene, come tutti. Come si chiama? Si chiama Leonardo. Si chiama Leonardo. Senti, e i primi mesi, i primi giorni che era a casa, era musica quella della notte che non ti faceva dormire? Ma o... appunto, no, ma io l'album Alien l'ho registrato proprio tra, tra un pannolino e una biberon, e quindi probabilmente in quelle note c'è la dolcezza, l'incanto, lo stupore di quel momento. Poi ecco, è un'esperienza che ha ancora rafforzato in me la convinzione per cui l'alieno è colui che vede il mondo per la prima volta, così come un bambino. Allora io mi sono rivisto un po' in questo neonato che prova stupore per... Senti, dico questa cosa, poi passiamo oltre perché è una tua cosa così privata, ma immagini subito, cioè, mi fai ascoltare musica 24 ore su 24, il tuo piano, vuoi che diventi a sua volta un... No, no. Tanto che ami la musica, ma sì, poi vedrà cosa diventare. Sì, ma io a casa il piano non ce l'ho, però... Come mai non ce l'hai? Questa è una storia vecchia, per una scelta, Dici perché sennò stai sempre attaccato. No, voglio rimanere col desiderio del pianoforte. Giusto, hai ragione, in modo da perdere noia, con una persona che c'è sempre lì, per carità, voglio dire... E quindi però... poi lo studio con dei procedimenti di concentrazione, una cosa molto zen, che però non mi riesce spesso. Anche in piscina però, no? È rimasto questo tuo rito? Sì, sì, assolutamente. No, io ho bisogno di ritualità. Ho bisogno mente. Di ritualità, di qualunque tipo, perché sono rifuggo tutto ciò che è indeterminato, allora mi aggrappo a queste ritualità. Ma che stavamo dicendo? Ah sì, sì, gli faccio ascoltare, gli faccio vedere su YouTube... le orchestre che seguono Mozart, che seguono i grandi capolavori che del fa? Passato. Dirige. Ah, dirige. Avete capito, ha iniziato bene, insomma, l'impronta è quella. Giovanni, sono ancora molti gli ascoltatori che vogliono intervenire, i tuoi fan. C'è un uomo, abbiamo detto che giustamente Giovanni ritiene che le donne siano esseri superiori, e mi pare che siamo d'accordo su questo, come controvertire, come ribattere, insomma, una verità assoluta. C'è Paolo però. Paolo? Okay. Buonasera al maestro. Ciao Paolo. Paolo, ciao. Cosa ne pensi di questo, di questa convinzione di Giovanni Allevi sulle donne? Attento a quello che dici, attento a quello che dici Paolo. Devo ancora scoprire bene tutti i lati delle donne, dato che sono solo quindicenne. Ah, che bellino. Meraviglia, Giovanni. No, ma io mi parlavo anche della, come dire, dell'approccio, del modo di essere femminile, però non, vabbè, lasciamo stare l'argomento. dopo parliamo anche d'amore, semmai, vediamo se c'è tempo e se Giovanni ne ha voglia. Paolo, e quindi con i tuoi magnifici 15 anni, che cosa ti piace di Giovanni, che cosa gli vuoi chiedere? Allora, innanzitutto vorrei, spero almeno che il maestro si ricordi di me, dato che sono di Napoli e l'ho seguito per tutti i concerti che ha ma fatto sì, qui. Ma sì, Paolo batterista, con bravo, i capelli ricci maestro. Corti e gli occhiali. Bravo. Che quasi ti assomiglia, quindi ce l'ha corti, sì, ricci. Sì, ma... un po' mi somiglia, anche la delicatezza, sì. Così. Ma, ormai il maestro per me è diventato più che solamente un musicista, è diventato ormai un esempio di vita, per me l'allevianesimo è una filosofia. Aspetta che me lo scrivo questo, l'allevianesimo, questa roba qui è interessante, coniata da un quindicenne. Una filosofia di vita, tu sai che è laureato in filosofia tra l'altro Giovanni Allevi? Certamente, infatti io sto pensando, nella mia indecisione diciamo, di seguire le orme del maestro e laurearmi in filosofia. Consigli, Giovanni, tu consigli di dunque, fare questo? È una bella scelta, è una bella scelta... Dai, ne parliamo, via mail. Perché poi Giovanni, sai, Giovanni ha studiato filosofia. Questo sicuramente è un substrato che poi è una base che gli è servita sia nella vita che immagino anche nella musica, Giovanni. Assolutamente, ne parlavamo anni fa, fondamentale, no, di questa cosa. Ecco. È stato fondamentale. Poi dipende da cosa vuoi fare tu, poi adesso Paolo, sarebbe un discorso lungo, Paolo. Quindi, effettivamente. Sì. Poi lo farete insieme al prossimo concerto. Invece cosa vuoi chiedere a Giovanni? Volevo chiedere al maestro, qual è l'impronta e quanto influisce questa impronta appunto della tua particolare interiorità che tutti conosciamo sulla tua musica, sulla tua composizione. Ah, bene Paolo. Bella, sì. Ne approfitto per dire che quasi nulla, Paolo, tu pensa? Ma ti spiego, la musica arriva nella mia testa, che è vuota in genere. Suona, prima agitato la testa o sei tu qualcosa che suonava? Lascio che la musica arrivi indipendentemente da come mi sento e da quello che sto facendo. Quindi io posso sentirmi magari triste per qualche motivo e arriva nella mia testa una musica gioiosa. Io posso vedere un paesaggio straordinariamente bello e colorato, nella mia musica arriva Memory che è praticamente così malinconica, dicevamo, no? E laconica. E dunque sono arrivato alla conclusione che non c'è una grande relazione. Però diciamo, a volte paradossalmente ti vengono le ispirazioni, però sempre da dentro te partono, no? Sarà io modo ho la di sensazione essere. Che più mi faccio da parte e più la musica si esprima. Meno interferisco e meglio è. E più lei è libera. Per quello ho immaginato che fosse una strega capricciosa. Come il tuo ultimo libro, no? Sì, Viaggio con la strega. La strega. L'altro è la musica in testa, musica. Sui ricci, abbiamo già sentito che prima sono autentici questi ricci. E l'ultimo, e quindi un po' la strega capricciosa per te la musica, come dici. Sì, la musica ha un'entità, qualcosa di altro da me. Anche in questo, quindi, l'essere alieni, essere posseduti, un po' come Alien, no? Sì, essere giusto. Posseduti, proprio così. Quindi non abbiamo, solo io ci scriviamo anche questa, non solo io, ma sai chi pensava queste cose? Anche Paganini. Ah sì? Sì, tanto che si diceva che lui avesse fatto quasi un patto con il diavolo, no? Per cui questo fatto di essere posseduto dalla musica e di fare in modo che la collettività, quindi il pubblico, venisse coinvolto in questo atto magico, più o meno lecito, questo mistico più o meno appunto. Grazie Paolo, sei soddisfatto? Hai già deciso che cosa vuoi fare? Sì, ha già deciso cosa vuole fare della sua vita. Elisabetta. Ciao. Ciao Elisabetta. Ciao Elisabetta. Ciao. Come va Giovanni? Bene. Tu mi conosci come Elisa più come Elisabetta, normalmente. Addirittura senti, questo rapporto così, sì, con fini epistolari. Cioè, ci conosciamo così, ci siamo visti in vari concerti, in vari posti. Senti Giovanni, ripartiamo sulla filosofia. La mia curiosità era quella di chiederti il tuo studio sulla filosofia che hai portato avanti, sappiamo anche a pieni voti. Quanto ha influito sulla tua musica e sulla tua vita? Grazie Elisa. Tantissimo, perché quando studi composizione, lo studio della composizione è durissimo, dura 10 anni, entri in contatto con i grandi del passato. In genere dopo questi 10 anni esci un po' con le ossa rotte, perché continuamente datemi una vacanza, di fronte a tanta magnificenza e tanta grandezza irraggiungibile dici io cosa farò? Esatto, cosa posso permettermi di fare? Tra l'altro il mondo accademico contiene questa contraddizione interna: io faccio di te un compositore ma non ti permettere di scrivere una musica perché ci sono i grandi del passato e non sarebbe paragonabile, diciamolo. Esatto, quindi c'è questa contraddizione di fondo. No, è carino questo. No, carina, questa fa delle vittime mentalmente parlando. Perché per un Allevi che ce la fa, quanti anche, Giovanni? Sì, ma io spero che ce ne siano tantissimi. Ecco. Allora, mi ha aiutato la filosofia. La filosofia, soprattutto la filosofia di Hegel, che afferma che esiste uno spirito del tempo che è manifestazione del presente e che il presente è più importante, più bello e più vivo e vero del passato. Oggi esistono dei caratteri nel presente che i grandi del passato non potevano nemmeno immaginare, e ogni epoca ha diritto alla sua musica, alla sua arte, alle sue espressioni. Per questo motivo, con rinnovato entusiasmo, mi sono gettato nella composizione musicale, proponendo comunque il mio punto di vista. Poi può piacere o non piacere pare che sia piaciuto, diciamo. Sia piaciuto, alcuni altri hanno storto il naso, però quando mi dicono sì, ma chi ti credi di essere perché ci sono stati grandi del passato, io ripenso a Hegel, è un po'... un po' ti conforta, mi sostiene. Grazie Elisabetta, ti volevo chiedere questa cosa. Una delle frasi scritte nel tuo libro, credo nella Musica in testa, dicevi: se impariamo a fare silenzio saremo in grado di cogliere l'eterna danza che ci circonda. Ti riferivi ai politici di oggi che sbraitano un po' troppo, forse? Perché no? Sì, c'è troppo sbraitare. Invece il silenzio, ma che meraviglia che è il silenzio. Io lo cerco, anche quando faccio i piatti a casa, quando mi abbandono a queste ritualità, però c'è sempre il silenzio. Perché in quella tela bianca che si forma nella mia mente, che come ti dicevo spesso alloggia nella mia mente, lascio cadere le note, le idee hanno più spazio e quindi c'è anche maggiore capacità di ascolto di chi ho davanti. Prima della prossima pausa, mentre Giorgio De Luca continua a prendere le vostre numerose telefonate prenotate naturalmente, vi dicevo da tempo, vorrei ricordare qualche data del Alien Tour di Giovanni Allevi. C'è il 5 luglio e sei al Castello di Maniace di Siracusa. Qualcuno si trovasse in quel bellissimo posto, bellissima città di Siracusa. Poi il 12 luglio a Fiesole, Firenze, ricordiamone qualcun'altra, ne dico così alcune a caso, non sono tutte, perché sono molte le date. A Brescia, per esempio, il 19 luglio, ad Ascoli Piceno, la tua patria, grande, diciamo. Grandissimo. 22 luglio, cosa fanno ogni volta i fuochi d'artificio? No, io faccio i fuochi d'artificio perché sono felicissimo di tornare ad Ascoli. Che poi meraviglia. Dopo a Trieste il 27 luglio al Castello di San Giusto, e poi ci sono altre date, Porto Rotondo per esempio il 30 luglio. Io non poi ne so neanche una, però ti condurranno, penso, a un certo punto ti troverai in un posto e lì ti diranno suona. Sì, no, certamente così è, non ha difficoltà in questo senso. Vi ricordo naturalmente che questa puntata eccezionale, questo speciale dedicato tutto a Giovanni Allevi, lo potete riascoltare su podcast o sul sito di radio24.it oppure sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Dovete cercare Roberta Giordano, Non ci sono più le mezze stagioni. Pausa e poi continuiamo con Giovanni Allevi. Sentite, sono le mani incredibili di Giovanni Allevi e sono anche il suo cuore, naturalmente, no? E sono questa testa che lui dice vuota e che si riempie magicamente di noi. Io non ho ancora capito come fa, qual è il meccanismo, però evidentemente non ho capito, diciamo, neanche io. Poi magari prima o poi ci riuniamo segretamente io e te, Giovanni, per capire effettivamente quale sia questo meccanismo. Senti, diciamo, hai studiato filosofia, psicanalisi, per capire magari quali meccanismi. Sai che tra l'altro leggevo uno studio americano interessantissimo in questi giorni, secondo il quale chi studia musica nei primi anni di vita e fino ai 10-15 anni, un qualsiasi strumento, senza diventare Giovanni Allevi, ma insomma anche così semplicemente amatoriale, invecchia meglio. Quindi sì. Tu pensi di essere, non so, verso i 95 anni, sempre questo pezzo di ragazzo riccioluto, con il viso da 13 anni e 3 mesi, diciamo. Speriamo, no? Speriamo. La mia esperienza è che chi studia musica è sottoposto continuamente al giudizio dell'insegnante, dei genitori, dei genitori di amici, eccetera. Quindi scatena delle ansie. Proprio ecco, ecco, tu dicevi prima, io... Non sono serio, me l'hai ripetuto più volte, no? In questo speciale, vi ricordo, questo è uno speciale monografico tutto dedicato a Giovanni Allegro. Confessati qua nel silenzio, diciamo, di questa stanza, di questo studio. Dicevamo? È dura, nel senso che veramente... Ecco, questa, la serenità, no? Dici, ecco, proprio perché la serenità, le pressioni sono queste? Sì, la pressione, ma non tanto, non sono tanto pressioni esterne, quanto il fatto di essere continuamente in contatto con la perfezione, una perfezione che mi sfugge. Alle gambe veloci questa sì, perfezione. Poi la memoria, il terrore del vuoto di memoria, no? Quando sto facendo il concerto. E penso che tutti se lo chiedano, quando ti vedono così concentrato con queste mani che corrono sul pianoforte, no? Ma è possibile una melodia così lunga, così complessa, articolata, si scorderà, magari qualche volta improvviso. Allora, può succedere che durante il vuoto di memoria uno comunque improvvisa, perché è una sorta di sopravvivenza, capito? Sopravvivenza, rimanere attaccato così, però dentro sto morendo in quel momento, perché ho tradito lo spartito musicale. Spartito, cari miei, ecco, facendo. E quindi probabilmente finirò in un ospedale psichiatrico, però... ti verremo a trovare senz'altro, ecco, però c'è l'affetto del pubblico, capito? Che è sempre fortissimo, devo dirlo, veramente. Quando si va ai concerti di Giovanni è pazzesco. Non ci sono i bis, ci sono i quadrisi, i cinque bis, come si chiamano, insomma, una cosa che non riesce a liberarsi, insomma, del pubblico, del concerto, andare a casa, perché, diciamo, di solito lo costringono a fare molto tardi. Il brano che sentivamo un po' più sincopato, dicevamo, di altri molto belli, molto dolci, che abbiamo sentito, appartiene sempre ad Alien, il suo ultimo album, Disco d'Oro, migliaia, centinaia di migliaia di copie vendute. È partito il suo tour, abbiamo dato qualche data, poi ne daremo anche qualcun'altra. Questo era Jolie. Sì. Jolie. Chi è? Chi è? No, è, una, così. È un brano pieno di gioia, di felicità. Da gioia, quindi. È sincopato, hai detto bene. Infatti ci sono tutti gli accenti che sono spostati tipo sull'ultimo sedicesimo della battuta. E poi ve lo traduco. Bravissima. È un blef. È il mio. Ornella è al telefono, vero Ornella? Sì, buonasera. Ciao, ciao Giovanni. Ciao Ornella, ciao. Come stai? Bene, felice di essere qua. Senti Ornella, tu sei andata a vedere, immagino, qualche concerto, no, di Giovanni? Tanti, ecco. Sì. E, quando tu lo vedi lì sul palco, cioè dici, sono andata a vedere un suo concerto, basta, ci andrò tra 2 anni, tra 3 anni, perché comunque sono piena di questa cosa, poi mi ascolto i suoi CD. Cos'è che ti spinge ogni volta a ritornare a vedere Giovanni? La faccio io, perché è la sua musica, perché la sua musica mi fa stare benissimo, quindi se posso vado anche a più di un concerto. Ma che meraviglia, grazie a me. Che bello, che bello. Ma vedi questa cosa, che cosa impressionante, cioè io sono lì che soffro, no? Che soffro perché ho mille paure, il vuoto di memoria, l'emozione eccetera, però poi sento queste parole Mi viene voglia di, ecco, dov'è il pianoforte? Voglio fare un altro concerto. Io lo volevo portare sul pianoforte, mi hai detto no, è pesante, la prossima volta comunque ci pensiamo. E, grazie, Ornella, a parte questo, che era una mia domanda, la tua domanda invece per Giovanni? Sì, la mia curiosità è questa. Gianni spesso ha dichiarato che la sua musica, la sua strega capricciosa, come lui la chiama, sì, dal suo monopolizza la sua vita tanto che quando, per esempio, prende un taxi o magari va al ristorante, chiede di spegnere la musica, perché gli crea interferenza. In genere è orribile quella che, scusami, che ci sono nei ristoranti e nelle pizzerie. Mettessero quella di Giovanni Allevi, è un suggerimento che diamo a tutta l'Italia. Sì, scusami Ornella. E allora chiedo a Giovanni se succede che qualche volta magari la strega gli lasci la libera uscita, per esempio per andare a vedere un concerto. Ah, se quindi io vado a vedere un concerto? Sì, il suo, di solito, il mega schermo. Certo, dunque, allora, intanto è problematico questo mio rapporto con la musica che mi viene imposta, perché nel ristorante c'è una musica che non ho scelto di ascoltare, così come e che, anche... ripeto, di solito è veramente stonata con l'ambiente. Sì, e quando soprattutto al tassista gli chiedo appunto di toglierla, non so perché si sentono sempre... Si indispone. Sì, cioè, chi sì. sei? Tu Giovanni Allevi, e per dirmelo. Però mi ha detto, ma tu ti rendi conto di quanto è importante invece per me la musica? Cioè, io sto... tutte queste ore in mezzo al traffico, se tu mi levi la musica, io vabbè, allora lasciamo la musica. È così. Raramente vado ad ascoltare un concerto, perché già cioè perché poi mi rivedo, capito? C'è il palco, il pianoforte, e così. Soffri a tua volta. Mi torco sulla sedia, e quindi niente, ho deciso che vado ad ascoltare me stesso quando sono lì. Ascoltate, passione di Giovanni, magari un'altra volta, perché i tempi corrono. C'è Monica. Monica. Ciao Monica. Non so se ti ricordi di me, perché qualche anno fa sono venuta al primo concerto tuo che ho visto al Blue Note. Sì. Ti ricordi c'era una che ti ha regalato la rosa rossa? Ma sì, chissà quante rose, scusa, non volevo levare adesso l'importanza. Grazie, si Monica. Ricorda di tutti, Giovanni. Grazie. Che capelli aveva adesso? Va bene, cioè non mi ricordo, ricordo la rosa rossa. Io ho messo quella foto come apertura di schermo del computer in ufficio. Fantastico, che bello. Ma ci stanno i capelli? Sì, Monica, è un po' ritoccato, però ci stanno. No, ma poi è venuto benissimo, ha un bellissimo sorriso e mi piace molto molto. Quindi l'abbiamo fatta dopo il concerto? L'abbiamo fatta dopo. Sì, che io ti chiamavo maestro, che mi dicevi dammi del tu, non ci riuscivo. Adesso però vedi che, ci riesco. Ma sai Monica, io dopo il concerto, quando mi fanno la foto vengo meglio. Ho scoperto questo. Perché no, se me la fanno... sei molto più rilassato. Se me la fanno prima è proprio solo una corda di violino. Infatti t'avevo visto all'entrata, eri un pochino teso. Monica, a parte questa tensione che comprendiamo, la tua domanda, perché stanno stringendo i tempi. No, volevo chiederti per piacere se mi potevi dire dove trovi l'ispirazione per le tue composizioni. Ad esempio io adoro Come sei veramente e Perfect Day, lo so che sono un po' vecchiotte, però a me piacciono quelle. No, quelle sono eterne, quindi non ti preoccupare. Nel senso, se le prendi dalla vita di tutti i giorni, magari un fatto che ti capita, un libro, qualcosa che ascolti. No, appunto. Grazie Monica, appunto dicevo, no, io lascio che la musica arrivi nella mia testa senza costringerla dentro degli obiettivi, e soprattutto lascio che fluisca liberamente, senza nessun motivo. Come dicevamo prima. Sì, però ecco, traggo ispirazione, se proprio vogliamo, dalla metropolitana, ecco l'autobus, questi luoghi non luoghi dove io mi sento proprio vicino all'umanità. Riusciamo con Cristina. Cristina, se sei proprio, guarda, telegrafica, perdonami. Sì, ciao Giovanni, ciao, sono Cristina da Milano, ciao. Sì. Dai, Cristina. Ciao, senti, volevo farti una domanda, visto che io ho visto tantissimi tuoi concerti e spero di vederne ancora tanti, e hai un bellissimo rapporto con il pubblico durante e dopo il concerto, questo bellissimo rapporto influisce anche sul tuo fare musica? Assolutamente sì, Cristina, assolutamente. Se non ci fosse questo affetto che percepisco da parte del pubblico, non ci fosse anche questa attenzione, questo entusiasmo, io non troverei proprio la forza per affrontare. Io sono timidissimo, Cristina, io muoio di paura tutte le volte. Fortuna che ci siete voi, guarda, io vi ringrazio. E la torta di cioccolato, che in genere si droga di torta di cioccolato, questo è il suo doping di Giovanni Levi. Ricordo anche le date di agosto del suo Alien Tour, il 16 agosto a Catanzaro Lido, il 17 agosto ad Altomonte, sempre in Calabria, poi il 19 agosto il bellissimo suggestivo anfiteatro greco a Taormina. Insomma, ci sono tante date ancora per Giovanni Levi. Io direi a questo punto, a parte un saluto che ci faremo tra poco, Giovanni, perché dicono che dobbiamo stringere, dimmi un tuo valore forte. Sono un sognatore, basta, questa è la cosa principale, sognare, essere un sognatore e osare. Quindi non rassegnarsi, non chiudersi, avere sempre questo sbocco. Fiducia, poi fiducia nel mondo, fiducia. Io metto in gioco la mia passione va a toccare le corde dell'emotività di altre persone, apre delle porte e succedono delle cose sempre. Ecco. Succedono delle cose... delle cose positive, come anche imprevedibili. Secret love, questo amore segreto che non chiediamo a Giovanni. Come possiamo salutarci in questo speciale così speciale, caro Giovanni? No, io avevo provato, mentre tu parlavi, a trasformare il tuo nome in musica. È possibile? Sì, basta trasformare le lettere, associare le lettere dell'alfabeto a una nota della scala cromatica e viene fuori una melodia. E che sarebbe? Che, però adesso c'è una musica che mi fa da interferenza, quindi mi dovete che togliere. Adesso abbassiamo, grazie. Mi bemolle do re bemolle mi naturale mi fa do. Questa sei tu, Roberta. È un onore pazzesco, e questo è Giovanni Allevi. Grazie Giovanni. Grazie. Ciao.